La prima notte degli scrutini americani, durante appunto la notte io ogni tanto mi svegliavo, cercavo di capire un po' come stavano le cose, c'avevo un po' quella strana sensazione che si ha ogni tanto quando hai paura che succeda qualcosa che non deve succedere. E di solito quando tu hai paura che succeda qualcosa che non deve succedere, è la volta buona che succede. E quindi ogni tanto, che ne so, alle 3, alle 4, alle 5, insomma, una certa regolarità, io mi svegliavo e c'avevo il terrore di prendere il cellulare e vedere, che so, Trump 270 grandi elettori, e lì sarebbe stato il panico, no? Perché chiaramente sa, tutti noi stavamo lì con l'ansia del fatto che questa cosa potesse in qualche maniera risuccedere, dato che insomma è successo una volta, perché non farla risuccedere di nuovo, anche perché poi sapevamo che Trump era lì che stava per recuperare, insomma, il grande svantaggio. Alla fine tutto sto risultato scontato non sembrava potesse esserci, c'era una certa incertezza generale, e allora insomma andavamo a vedere come era la situazione. Verso le 6:30 ero comunque in cucina. A questo punto ho provato a sentire Radio Capital, perché di solito continuano a fare una certa diretta, ma sapete, Radio Capital è cambiata moltissimo negli ultimi tempi, e secondo noi anche non tanto in bene, ma quindi sono questioni anche che riguardano loro. Però a un certo punto metto Radio 24, perché dico, vabbè, che ti pare che Radio 24 non faccia comunque una diretta, ci siano comunque dei commentatori, diano i risultati. Invece di dire insomma com'era la situazione in quel momento, qualcuno magari esprimeva determinate opinioni o cercava di fare una proiezione di quello che potesse essere, c'era sto tizio che stava praticamente facendo passare degli audiomessaggi, no? Dei WhatsApp classici che si fanno adesso nella radio, e c'era un tizio che diceva: "Ah, beh, ma l'America mica è come da noi, che abbiamo il governo che non è eletto direttamente dal popolo." E lo speaker, insomma, interviene dicendo una cosa intelligentissima. Dice: "Beh, che volete? Questa è la democrazia rappresentativa." E io lì ho cominciato, sapete quando comincia a montarti un po' la biastima dentro, no? Perché io un po' so così, no? Cioè, se tu entri dentro una stanza ancora un po' semibuia, vedi sta sagomona e va bla bla bla bla bla bla, dici, capirai. E allora mia moglie è entrata e ha detto: "Ah, beh, ma buongiorno, eh." Eh sì, buongiorno. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia, che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No? Se non sta un metro e mezzo, no. Buongiorno. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico, smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid! Non c'è niente! Sulla luna abbiamo fatto gli studi in 70 e noi siamo arrivati a 70. Stavo di qua mutando la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, o te sputo, che fai? Buongiorno, buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Ritengo che questa sigla sia ancora troppo lunga, ma anche chi se ne frega, è la sigla di Buongiorno un cazzo su Runtime Radio, dove non dobbiamo tenere assolutamente conto di nessuno. Io vorrei iniziare proprio da questa cosa di Radio 24, perché ho sentito tantissime volte le persone, in generale, quando mi sono trovato a fare, che ne so, delle discussioni, delle chiacchierate su quelli che potevano essere un certo tipo di informazione piuttosto che un altro, sentire parlare di Radio 24 come di una radio sobria, imparziale, che comunque ha insomma un atteggiamento molto trasparente, che piace piace insomma alle nonne, ma in realtà quello che ho sempre pensato è che difficilmente una radio che è comunque collegata a un'area economica del nostro paese come Confindustria, diciamo, mi sembra un po' complicato poter dire che sia una radio assolutamente imparziale. Quello che fa Radio 24 è mettersi il vestito bello, quindi l'atteggiamento molto politicamente corretto, molto pulito, molto professionale, che è un po' quello che l'atteggiamento ci hanno i venditori quando arrivano tutti belli imbellettati dentro casa di qualcuno, no? E ritorniamo sempre al discorso che l'arbitro non fa il monaco, in realtà l'abito non fa il monaco, e questo qua vale anche ovviamente per Radio 24. Quindi quando sento qualcuno che mi viene a dire, beh, però dai, in tutto sommato l'informazione, no, è sempre un'informazione filtrata da un pensiero, da un'idea, come poi in realtà vale per tutti, probabilmente vale anche per noi, no? Cioè, nel senso, come tipo di discorso Runtime Radio, ma noi siamo Runtime Radio, siamo una radio casereccia, diciamo, fatta dentro casa, come in questo momento, nella mia stanza, con un computer, con il mixer nuovo, 50.000 fili che si avvolgono una intorno all'altra, senza un ordine preciso, con delle cartelle aperte che se mi si chiudono poi in questa diretta io vado a fare un po' di casino, però non fa niente, questa è insomma è la nostra possibilità. Loro sono diversi, loro sono il network importante che si veste per bene e quindi alla fine può venirti a vendere le bibbie davanti casa. E a me questa cosa della democrazia rappresentativa detta da quello speaker con quell'atteggiamento così quasi di disprezzo mi fa molto incazzare, è una cosa che proprio a me mi manda i matti, ragazzi. Cioè, io vedere comunque la gente che parla di cose di cui probabilmente non conosce neanche il meccanismo, ma non soltanto questo, secondo me c'è anche un problema proprio di concezione, quindi di profondità del pensiero che riguarda il perché è stata creata così la nostra democrazia. E questo modo di essere la nostra democrazia in realtà poi alla fine è quella che ci ha salvato già in due occasioni nella nostra storia repubblicana dal andare verso un declino completamente diverso, che è quello appunto che i padri fondatori della Costituzione insomma volevano evitare, no? E infatti ovviamente hanno costruito una democrazia strutturata, complessa anche, probabilmente poco snella, ma quella poca snellezza permette proprio alla democrazia stessa, alla nostra democrazia stessa ovviamente, di poter sopravvivere in qualche maniera, no? Di poter salvaguardarsi, proteggersi, mettere dei livelli. Ma di questo è una cosa che parleremo, perché ci sono delle puntate che ho previsto proprio in merito a questa questione qua, perché è una cosa che sicuramente ha la sua importanza. Queste elezioni USA invece sono passate, o ancora non sono passate, perché in realtà pare sia stata data l'ufficialità della vittoria di Biden rispetto a Trump, anche una vittoria con un certo vantaggio, quindi alcuni stati dove Trump era in vantaggio poi alla fine è stato recuperato, quindi adesso la grande battaglia di Trump sulle frodi postali, via dicendo, insomma, ma tutto questo e tanto altro ancora ne parleremo questa sera su OGM. Vi ricordo live alle ore 21, perché abbiamo tanti contributi, tante cose, c'è una scaletta strutturata. D'altronde questa settimana ci ha prestato insomma a tante cose di cui raccontare per quanto riguarda le elezioni americane, che non ci hanno finito di stupire fino all'ultimo, ma non solo, ci sono tantissime altre cose di cui parleremo. Ma il tema di questa puntata, che si intitola Coprifuoco, in realtà non vuole appunto focalizzarsi su questo, appunto rimando a questa sera quando parleremo con tutti gli altri su OGM. E il tema di questa puntata invece è legata a un discorso che mi è venuto come spunto. A voi dovete considerare, io ho delle puntate diciamo idealmente pronte, cioè ho dei temi già pronti, poi chiaramente a seconda di quello che succede intorno a me mi può venire magari lo spunto di dire, di fare, che ne so, determinate cose. E in questo caso guardando una puntata di Propaganda, non quella di questo venerdì qui ma del venerdì precedente, c'è stato un monologo, adesso vi faccio sentire immediatamente, e che alla fine secondo me è stato interessante, proprio perché mi ha dato spunto punto di, nel dire, nel insomma, di voler esprimere praticamente un'idea su questa cosa qui. Adesso ve lo faccio sentire, è importante, non è cortissimo, ma è interessante ed è anche simpatico, e tutto sommato, ragazzi, vi fa fare quel sorriso annuendo, no? Dice, sì, beh, in effetti, ascoltatelo, poi ne parliamo. Ovviamente adesso parte, perché insomma sai i potenti mezzi della tecnologia di Windows che sempre ci stupisce, no? Quando deve... More, so io, a faccia della finestra, so io. Non te l'aspettavi, eh? Sì. No, ho portato sti quattro amici per fare la serenata. Sì, lo so, è una cosa antica, non la fa più nessuno, però io me l'ho sempre sognato che te venivo sotto alla finestra con un mazzo di... No, sono tutti tamponati, so... Vabbè, è seriologico, però come non è attendibile, no? Beh, no, Angelini è così, è smunto di suo, ma sta bene, non sta male. No, no, fammi parlare, no, comunque mi ero sempre sognato che venivo qui, te la cantavo, tu scendevi a prendere i fiori, mi baciavi, io ti dicevo, amore, ma vuoi sposare? No, aspetta, non scende, aspetta un attimo, non resta lì, no. No, ho fatto il tampone io, no, rapido, però ho fatto il tampone. No, sto coperto, ecco, vedi, amore mio, non so come dirtelo, però per farla breve, sta serenata e per dirti che io non te posso sposare, no. No, non c'ho un'altra, no, no, no. No, ma che l'amore, amore? No, ma che c'entra l'amore? No, aspetta, stiamo a sentire. Il fatto è questo, che stamattina il cinese... Sì, il principale mio mi ha chiamato, mi ha preso da parte a distanza e mi ha detto che mi manna via e fa tutto da solo perché tanto il lavoro è poco. E invece la verità è che c'ha paura che gli attacco qualcosa. Che poi pure ho pensato che a marzo ero io che non ci volevo andare al lavoro perché dicevano che i cinesi ci attaccavano a noi e mo è lui quello che non mi voleva a me. E mi faceva quasi ridere sta cosa, va. Da domani sto a casa e non ho riso più. Sì, lo so, l'amore, Nina, tu dici l'amore, ma senza stipendio io non becco manca la cassa integrazione. No, mo, perché col fatto che mezzo stipendio lo prendevo segnato e mezzo a nero non mi tocca. Lo so, a me mi sembrava conveniente, mo. No, non ricominciare con sta storia del reddito di cittadinanza, te prego. Io lavoravo e a me la mattina mi piaceva alzarmi e andarmela a guadagnare. E quindi senza sordi, senza cassa, e come la famo sta festa di matrimonio? Lo so, con solo 30 invitati risparmiamo, ma come gli tagliamo l'altri 100? Ma com'è sorteggio? Ma metti che esce mia madre, mia sorella è pure testimone, che gli dico? Ma che festa è, dai? Sì, ho capito l'amore, Nina, tu dici sempre l'amore, ma che amore è se io torno a casa e tu mi guardi da lontano, non ti avvicini? Che amore è se io non te posso abbracciare quando torno a casa la sera? Se per darti un bacio te devo chiedere se hai preso la metropolitana e quanta gente c'era? E che se c'ho un po' di tosse mi devo chiudere uno sgabuzzino, mi passi la pasta sotto la porta. E io con la febbre vorrei pure farmi visità, ma non mi risponde nessuno. Nessuno mi dice quello che devo fare, e se te lo dicono non si capisce niente. Io non lo so più che devo fare. E lavate le mani, rilavate le mani, levate i vestiti, si attacca le sole alle scarpe, mi hanno detto di tutto, ho comprato qualsiasi cosa. Le mascherine buone, quelle cattive, quelle che te servono, quelle che tanto è come non mettersele, ma che te metti a fase, non c'hai la chirurgica, non sei nessuno, FP, FP2, FP3, FP9, e prima c'era l'acqua carta, ammazza il virus, sta sereno, poi l'antibiotici, l'antivirali, poi fatti i gargarismi con la candeggina, ma come, io mi piace... Prima ce lavavo il bidet con la candeggina e poi l'idrocrossiclorichina, non so manco come si dice, poi la vitamina C, la vitamina D, poi le difese immunitarie, ho speso tutto quello che mi era rimasto, dei integratori, dei pasticche, dei compresse, e poi mi hanno detto ma tanto se te lo devi piatto te lo prendi, il Covid non te perdona, e poi sono i positivi il problema, poi farsi positivi, poi farsi negativi, poi farsi e basta, poi i tamponi, rapido buono, quello inutile, il fungidito, i sintomi. Asintomatici pericolosi, asintomatici no, ma invece asintomatico peggio, più infame del sintomatico, e i bambini non so piano, e invece i bambini so piano, ha voglia se so piano, e mi ha chiamato la pediatra, mi ha detto prendi della lattoferina che è una sporta, io compro sta cosa imprescindibile e vitale per l'uomo di cui io però non avevo mai sentito parlare prima, poi arriva il dentista e ti dice no che serve a cazzo, la lattoferina, ah coglione ci hai creduto, il dentista, la pediatra, parlano tutti sicuri di questo. quello che dicono. E il portiere mi ha detto del 5G, e il portiere c'ha la radio con la manopola, con l'antenna alta un metro e mezzo, e il portiere mi parla del 5G. A quel punto tu pensi, ma non è che pure i terrapiattisti ci avranno un filo di ragione, un briciolo? Non dico tutta perché io mica sono scemo, però st'estate mentre il traghetto andava verso Ischia, io ho guardato lontano, ho pensato, ma non è che se andiamo di sotto e caschiamo nel buco nero? Il buco nero, ecco quello che c'ho in testa. Perché lo sai che c'è? Cala fino al problema, è che non sto a capire. Non sto a capire, e quando io non capisco c'ho una cosa sola: paura. Quando non capisco io c'ho paura. Vorrei che arrivasse uno che mi dice quello che devo fare. Uno che ci capisce sarebbe meglio, ma anche uno che dice cose sbagliate. Ma uno mi deve rassicurare, perché io non capisco. Per farmi stare a casa tutto il giorno l'hanno chiamato lockdown, che manco lì capivamo che significava. E mo invece per farmi tornare a casa alle 11, coprifuoco. Ma che se usano le parole così a cazzo? Coprifuoco è brutto. Cioè, coprifuoco non si usa così. Dimmi orario per tornare a casa. Dimmi fine giornata. Dimmi lock day. Inventate una parola nuova. No coprifuoco. Coprifuoco è brutto. Coprifuoco io c'ho paura. Ecco, amore mio, sta serenata è per dirti che non te posso sposare. Dovemmo aspettare. Non lo so quando. Lo vorrei sapere, ma non lo so. Mo vado. Chiudi le finestre. A rilava delle maniche hai toccato la maniglia, però bene, eh. Cioè una trentina di secondi almeno. E poi dormi. Io è meglio che vado, perché è quasi mezzanotte, non c'ho manco l'autocertificazione. Tanto se mi fermano, io lo dico a voce. Io autocertifico che c'ho paura. Edoardo Leo! La propaganda live! Edoardo Leo, la propaganda live, venerdì scorso. Un monologo che a me mi ha toccato particolarmente, perché in realtà è l'ultima parte, quella sulla quale mi volevo concentrare oggi, questa mattina, relativamente a questo monologo. Quindi avrei potuto mettere gli ultimi due minuti, no? Così magari vi annoiavate di meno, oppure dice vabbè, ma così sono buoni tutti a fare la trasmissione, metti i contributi dell'altri. E in realtà penso e spero che quelli di propaganda non si offendano per questa cosa, non se la prendano, anche se non lo sapranno mai, ma se lo dovessero venire a sapere potrebbero anche benissimo dire: oh, ma che fai, usi la roba nostra, ci devi pagare copyright. Ma magari penso che sono più aperti mentalmente, dicono vabbè, ma chi se ne frega. Potevo mettere gli ultimi due minuti, appunto, perché su quello che volevo un attimo concentrarmi, ma poi in realtà mi sono ascoltato tutto il monologo, e il monologo è bellissimo, raga, cioè tutti parlano, no? Il portiere che c'ha radio con la monopola parla del 5G, e il discorso del distanziamento, della paura, della confusione, del fatto che non ci abbiamo capito niente e che tutti parlano. È vero, è così, non c'è niente da fare, ma ne parleremo anche di questo, ne parleremo nelle prossime puntate. C'è una bella scaletta, perché anche de sta roba tocca parlare, no? Tocca parlare pure delle responsabilità delle persone che creano confusione ulteriormente, oltre a quella che già la gente c'ha, perché c'è sta la confusione, non c'è niente da fare, la gente c'ha paura. Ma poi a me la cosa che mi fa incazzare veramente tanto è il ritorno alla citazione più semplice, più banale, no? Quella di Nanni Moretti in Palombella Rossa, film profetico, grandissimo film. Film che andrebbe rivisto, allora magari nessuno capiva, oppure diceva vabbè, il solito film Nanni Moretti. C'aveva ragione Nanni Moretti, e Nanni Moretti in quel film ti diceva che le parole, al di là di tutto il resto della metafora politica, e che al centro c'è l'acqua alta, no? Vi ricordate, il film parlava di queste partite di pallanuoto, no? Quindi la piscina e tutto quanto, vabbè, ma al di là di quello, ci diceva che le parole sono importanti. Le parole sono assolutamente importanti. E quante volte ci siamo trovati a dire anche nella scorsa stagione, magari in OGM o magari in Everything con Michela, magari con Lobby o con tutti gli altri, ci siamo trovati a dire che c'è una similitudine, quasi un desiderio forse motivato dalla stampa, io non lo so bene da chi, no? Di associare il linguaggio relativo a questa nostra tentativo di sopravvivenza al Covid alla guerra, no? Le terminologie di guerra, i medici in prima linea, le vittime di questa battaglia, vinceremo questa guerra. Tutto è sempre rapportato a cercare di trovare una eroicizzazione di quello che stiamo facendo all'interno di questo grande discorso che riguarda il Covid, che da una parte potrebbe anche starci, no? Ma secondo me non ha più valore o meno valore il lavoro che fanno i grandi medici, gli infermieri e tutte le persone che comunque ogni giorno affrontano questo tipo di problematica. Non è che se tu dici che stanno in guerra o se stanno in prima linea, allora questa cosa c'ha più valore o meno valore. E questa cosa pure sulle vittime, il conteggio delle vittime, no? E come se fossero una sorta di eroi sconosciuti all'interno di questa grande storia che è il Covid, che un giorno forse riusciremo a fare il punto della situazione di tutto quello che è successo, perché come abbiamo detto non sappiamo mai e non sapremo forse mai quanti sono stati veramente i contagiati, quanti sono i morti. E io potrei raccontarvi la storia di mio padre, ma ve l'ho raccontata l'altro anno, perché ti dicono ok, tu non ti puoi avvicinare fino a che non lo sigilliamo dentro una scatola di legno, però non è morto di Covid, tranquillo, è tutto a posto. E quindi alla fine dici, insomma, ma di tutta sta situazione, no? Di tutta sta necessità di voler trovare anche delle terminologie, no? Alla fine penso alla parola lockdown, ho trovato la parola lockdown, ok, lockdown è, forse è in senso generale, bisognava distinguere il fatto che il lockdown, quindi la chiusura generale di tutto quanto, dovesse essere separata da invece alla sera statevene a casa. E invece di dire la sera statevene a casa, se usa il termine coprifuoco, che questa è la cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo. Regà, il coprifuoco è brutto, il coprifuoco fa paura. Perché il coprifuoco è una parola che manca di rispetto a tutte quelle persone che hanno dovuto subire un cambio di governo, un colpo di Stato, una dittatura. Tutti quelli che il coprifuoco l'hanno vissuto per davvero, con i militari per strada che gli sparavano se uscivano di casa. Oppure i ghetti degli ebrei durante il nazismo, durante l'occupazione nazifascista, durante il periodo in cui in Italia abbiamo accettato con la Chiesa, complice, maledetta Chiesa complice, abbiamo accettato che gli ebrei fossero rinchiusi nei loro quartieri e zitti e non uscite di casa la sera, perché sennò ve sparamo e poi avevamo fatto anche de peggio. E il coprifuoco è quello, regà. Il coprifuoco è il tizio che non può uscire di casa perché sennò gli sparano. No, non può uscire di casa perché è meglio che stai dentro casa perché c'è il Covid e poi dopo, che ne so, magari alla fine t'ammali o roba del genere. Il coprifuoco è un'altra roba, regà. Di che cazzo stavamo a parlare? E la gente non c'ha più neanche la cognizione, perché non si rende conto. Usiamo le parole così, a sbafo. E allora io volevo chiudere questa puntata raccontandovi una cosa che probabilmente avevo già raccontato, però mi è rimasta talmente impressa quando ero ragazzino che la voglio riraccontare, perché poi magari c'è qualcuno che non l'ha ascoltata magari nelle altre occasioni. Perché in Italia, anzi a Roma, quando c'erano il periodo degli anni di piombo, c'era il terrorismo, Aldo Moro, e Brigate Rosse e tutta quella roba di cui anche qui parleremo in qualche altra puntata. Ah, ma tu dici sempre no, ma tranquilli che ce l'ho la scaletta. Se una volta a settimana, se non dovesse bastare, farò due volte a settimana. Ma comunque a Roma, in quel periodo lì, quando eravamo ragazzini, io e mio fratello, e mia madre e mio padre erano due giovani genitori, non è che c'era il coprifuoco, non si diceva oh regà, se uscite da casa vi sparamo. Ma era un coprifuoco, come posso dire, suggerito, insomma. Si faceva capire alla gente che comunque, ragazzi, non uscite da casa. È meglio che non uscite da casa la sera, perché la sera si fanno determinate operazioni, c'è più controllo, c'è via. Ragazzi, c'erano, a differenza di oggi, c'era l'esercito per strada. E questo forse magari se lo ricordano in pochi, perché magari non tutti hanno vissuto in una grande città, e magari non tutti hanno vissuto a Roma, e magari non tutti sono abbastanza vecchi da ricordarsi questa cosa qua. Ma c'era l'esercito per strada e non si usciva, le cose, i posti erano chiusi. E una sera, non so per quale ragione, mio padre ha detto: andiamo a prendere gelato. Prende la macchina, andiamo a prendere gelato, cerca il gelato. Poi mi sa che non se lo siamo manco mangiato sto gelato, perché poi alla fine era tutto chiuso. C'è una via a Roma, nella zona dell'Appio Tuscolano, che taglia tutto un pezzettino di Tuscolana e porta verso la zona di Piazzale di Roma, no? Quindi taglia un pezzo di città. Però è una zona vecchia, l'avete sicuramente vista in tanti di quei film popolari, tipo, che so, anche il Marchese del Grillo, no? È una zona dove c'è un acquedotto, una piccola strada, ci sono imboscati dei meccanici, dei carrozzieri, delle cose insomma un po' così losche. Però è una strada che si fa, perché insomma alla fine taglia un pezzo. E mio padre, tornando a casa, via in bocca praticamente sta zona del Mandrione, sta via del Mandrione. E poi a un certo punto, anche lì, perché non si sa chi gli aveva detto a testa, al cervello, forse perché era stressato, forse perché voleva allentare la tensione, forse perché vedeva tutti un po' preoccupati, chi lo sa perché, no? Ha detto: oh, mo... Ah no, mio fratello gli disse: papà, perché non fai fischiare le gomme? Cioè, perché non sgommi, no? Però, amore, cazzini, non è che sgommi. Allora mio padre, che ne so, magari per accontentarlo, roba del genere, nelle ultime due curve, prima di una serie di archi che riportano praticamente in una piazza, quindi esci da sta zona del Mandrione, sta zona stretta, praticamente lui comincia a sgommare, a fischiarsi le gomme, correndo, roba del genere. Appena esce da sti archi, c'era praticamente due camionette dei parà, dell'esercito, con i mitra spianati contro mio padre, il quale ovviamente si è fermato all'istante, è alzato le mani e se sarà cagato sotto, perché secondo me si è cagato sotto in quel momento, e chiunque si sarebbe cagato sotto, perché quelli stavano con i mitra spianati in una situazione di tensione, in una situazione particolare, senza la sicura, pronti a sparare. Allora, e mia madre, terrorizzata, e diceva: ma no, siamo usciti solo a prendere un gelato. Che dice signora, che dice signora? E noi da dietro che eravamo spaventati, due ragazzini che ci avremmo avuto 5-6 anni, mo a ta ricordano. E quello è il coprifuoco. Quello è la cosa più simile al coprifuoco. Perché se noi oggi ci avessimo avuto veramente un coprifuoco, probabilmente tante cose non sarebbero successe, no? Ma io il coprifuoco lo contesto comunque, lo condanno comunque. E condanno chi utilizza una parola che è assolutamente inappropriata. Questo tipo di situazione è assolutamente inappropriata e manca di rispetto per tutte le persone che hanno vissuto dei periodi o delle situazioni veramente drammatiche, veramente brutte, così a sbafo, semplicemente perché non siamo capaci oggi di trovare, che so, un'altra parola. Boh, io non lo so, raga, cioè un punto sul quale riflettere magari insieme, magari tornarci anche sopra. Io so che magari state a scrivere qualcosa in chat e io non lo sto guardando, perché purtroppo non riesco a fare tre cose insieme da solo con Mixer, pensando al fatto che magari, come ieri sera con Michela a Mono, che tra l'altro è disponibile, scaricatevela, molto carina la puntata, insomma poi magari mi sbaglio, però sì, sicuramente state a dire qualcosa, magari mi state anche a insultare, insomma. Ci avrò tempo di leggere i vostri messaggi e magari ci avrò tempo pure di ritornarci su questo tipo di storia, insomma. Nel frattempo, regà, io di fronte al fatto che questo è un grosso casino che ci porteremo avanti per anni e che comunque c'è soltanto una grossa confusione, alla fine, di fronte alla parola coprifuoco, io vi dico buongiorno. Però come al solito mi viene da dire buongiorno un cazzo.